notte, rimbomba il vuoto dentro come tante botte. Il frastuono dei pensieri mi lascia sveglio, soprattutto quello di trovare di meglio. Sono pieno di complessi nella mia testa, e il dolore spesso è tutto ciò che resta. Sono stato confidente solo con me stesso, ciò che mi tiene compagnia è il mio riflesso. Vengo dalla strada, dicono perciò diverso. Mi sono fatto sempre forza quando ero perso, e per quella paura di essere calpestato, spesso il silenzio mi ha condannato. Davo il meglio nella mia squadra di pallone, per non sentirmi dire che ero un coglione. Il silenzio lascia pregiudizio alla gente, perché si pensa che in qualcosa si mente. Io non piangerò, io non mollerò per farmi schiacciare. Io lotterò con tutta l'anima che ho. Io vincerò perché la forza mia viene dalla vita. Dopo tutto è stata lei a farmi ciò che sono. Sono passato tra mille compagnie, fino a ritrovarmi con le mie malinconie, di aver perso tanto quando ero spensierato, e invece solo ostacoli ho incontrato. Rinnego tutto nella vita in cui vivo, anche nelle persone che io stesso credevo, perché alla fine sono rimasto ucciso, cambiando l'espressione qui sul mio viso. Chi ti fa del male prima o poi capirai, sei membro della famiglia non perdonerai. I miei schiaffi li ho presi proprio da loro, svalutando me stesso come oggi loro. Di luce propria si brilla e tu lo sai, ma non vale per me ed è per questo capirai che questo tono che fa vibrare la finestra è ciò che non ho cancellato e che resta. Io non piangerò, io non mollerò per farmi schiacciare. Ricordi, chiudo la porta ma di tante cose non ti scordi. Sono vittima di me stesso in tutto ciò che sono, parole che fanno rumore come questo tuono. Non mi perdonerò mai delle scelte sbagliate, perché la maggior parte io non l'ho cercate. Con poca personalità mi sono fatto guidare, e oggi eccomi che non so più sognare. Non è colpa di nessuno, solo di me stesso, e oggi affronto tutto come sono adesso. Se navigo fra le maree dei miei pensieri, riprendo a sognare con mille desideri che finalmente ricorro per farli avverare, così in un'altra notte li potrai ascoltare.